America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Motori rombanti, si apre oggi a Detroit il Salone Internazionale dell'Auto. Grandi novità, novità che arrivano innanzitutto da Fiat Chrysler, dalla Maserati quattro porte alla Jeep Grand Cherokee, ma ci sarà anche una nuova Mini Paceman John Cooper, poi BMW Series 4 Coupé. Ecco, questo salone di Detroit che dura fino al 17 è forse il più importante del mondo, e in questo caso devo dire, ripenso alla settimana scorsa al salone a cui sono stato sui prodotti di Consumer Electronics, dove di italiani ce n'erano davvero pochi. Bene, qui la presenza italiana invece è molto più robusta, non soltanto per la Fiat, ma perché ci sono una gran quantità di produttori, fornitori nel comparto auto che operano in Italia. Voglio dire, da Bombassei che fa i freni a una gran quantità di aziende diversificate nella cintura torinese. Dunque, in questo caso ci saremo, la fiera è importante, l'evento è importante. Altri due elementi di attesa per questa settimana: dal punto di vista finanziario ci saranno i risultati di bilancio di alcune delle più importanti banche americane, dunque quello darà un po' il polso per il mercato. E poi c'è un annuncio a sorpresa di cui non conosciamo i dettagli. Facebook ha invitato giornalisti, esperti del settore, analisti a un appuntamento misterioso per domani, martedì 15. Non ha voluto dire di cosa si trattasse, ma ha anticipato: venite a vedere cosa stiamo costruendo. Naturalmente tutti si stanno scatenando e ci sono quattro ipotesi. Ipotesi numero uno è che Facebook possa annunciare un telefonino ed entrare dunque in concorrenza in un settore che si va facendo sempre più affollato. Tra l'altro ci sarà la presentazione del nuovo telefonino della BlackBerry, che è avanzatissimo, devo dire, per quel che ho visto in anteprima funziona molto bene. Altra ipotesi: Facebook entra in e-commerce. Terza ipotesi: no, entra in music sharing. Quarta ipotesi: annuncerà un motore di ricerca. Chissà, magari farà tutte e quattro le cose insieme, ma devo dire c'è piuttosto attesa per questo evento. Ecco, di nuovo c'è un fil rouge, c'è un filo conduttore su questi tre eventi: Detroit, i risultati delle banche e la presentazione di Facebook. Da una parte la finanza, dall'altra l'industria, dall'altra la tecnologia. Ecco, il settore dove noi siamo più presenti è quello dell'industria. In finanza ovviamente ci difendiamo, anche se non siamo al livello delle grandi banche d'affari. Ma la cosa, ve lo accennavo poco fa, che mi ha scoraggiato piuttosto la settimana scorsa, e dunque vorrei approfittare della trasmissione di oggi per farne un po' un bilancio, è la chiusura della fiera di Las Vegas dedicata ai prodotti, al consumo dell'elettronica, dell'elettronica avanzata, ai prodotti digitali, dove si costruisce il futuro. E dunque, per una riflessione sul fatto che siamo indietro, forse siamo più chiusi che aperti, almeno questo è il mio punto di vista, ho con me ai microfoni di America 24 Stefano Parisi, fondatore di Cili TV, presidente di Confindustria Digitale. Buongiorno Parisi. Buongiorno. Ecco, la mia impressione è che a Las Vegas eravate di italiani davvero in pochini. Mi ricordo di aver visto Agnodori, sono incontrato lei, ma nessun altro a parte dei giornalisti. Lei ne ha visti altri? No, in effetti no, però insomma, ecco, diciamo che dal punto di vista del prodotto, dell'elettronica di consumo, l'Italia è fuori da tempo. Il tema è semmai appunto l'attenzione che il resto dell'industria dell'ICT può trarre dall'importanza dell'evoluzione tecnologica sui prodotti dell'elettronica di consumo nel mondo. Oggi questa è stata una fiera veramente globale, dove tutto il mondo era presente, e la presenza è una presenza molto importante perché c'è una grande attenzione su come questi prodotti stanno evolvendo e cosa stanno portando dietro di crescita, di altre possibilità di business sul mondo internet. Quindi credo che effettivamente bisognerebbe dare un po' più di attenzione a questa evoluzione tecnologica, che solo qui una volta l'anno si tocca veramente il polso di quello che accadrà nei prossimi 2 o 3 anni. Ecco, no, infatti il punto è questo, cioè il punto è che io mi sono reso conto che lì non c'erano soltanto i produttori dei gadget o dei nuovi prodotti al consumo elettronico, no, c'erano per esempio una gran quantità di operatori nel settore dei media, perché la distribuzione del content attraverso lo smartphone, attraverso televisioni intelligenti, insomma attraverso questi nuovi mezzi, significa cambiare il modo in cui si distribuisce la pubblicità. E c'era una gran quantità di pubblicitari da tutto il mondo, c'erano banchieri e c'erano dunque finanzieri internazionali, perché poi i finanzieri devono in qualche modo capire dove si muove il settore. Ecco, allora una domanda. Lei ovviamente era lì anche per la sua azienda, ma era lì anche come Confindustria Digitale. Lo ricordo tra l'altro, Confindustria è la proprietà del gruppo Sole 24 Ore, dunque indirettamente anche di questa nostra radio. Mi consenta però una domanda, ma perché non vi siete fatti voi promotori per, diciamo, mobilitare, sensibilizzare le industrie italiane a andare a Las Vegas? Sì, certo, questo è vero, in effetti avremmo dovuto probabilmente organizzare meglio e sicuramente lo faremo l'anno prossimo. Confindustria Digitale è appena nata e sta muovendo i primi passi nella rappresentanza del mondo dell'ICT. Immagino che su queste scelte incidano anche un po' i budget aziendali. Mandare una delegazione a Las Vegas in questo momento di crisi dove tutte le aziende tagliano i costi può essere un po' costoso, però nello stesso tempo invece io credo che sia un importante investimento sul futuro, sia in termini di relazioni che in termini di comprensione del trend tecnologico. Capire cosa succede è un fatto molto importante, quindi credo che da questo punto di vista dobbiamo essere un po' più attenti e stimolare un po' di più l'internazionalizzazione e la globalizzazione delle nostre aziende proprio verso queste momenti importanti per fare il punto della situazione dei trend tecnologici. Ecco, secondo lei l'Italia è un paese aperto o un paese chiuso da questo punto di vista? Diciamo così, che è molto aperto nel senso che ci sono molti investitori che stanno investendo in Italia, le aziende di telecomunicazioni ormai soltanto Telecom Italia è italiana, ci sono grandi operatori che investono in Italia, che vedono in Italia un mercato molto interessante, un mercato interessante perché c'è ancora molto da fare come crescita della penetrazione internet, nello stesso tempo c'è una grande penetrazione degli smartphone, dei tablet, dei cellulari, quindi è un mercato potenzialmente molto forte, di crescita forte, è un mercato dove il mondo della televisione e delle TV smart sta crescendo in maniera abbastanza importante e in più la scolarizzazione, ovviamente è una scolarizzazione alta, quindi è sicuramente un mercato verso cui c'è grande interesse ad investire da parte dei grandi operatori internazionali. Nello stesso tempo io credo che bisognerebbe stare un po' più attenti a cogliere meglio le opportunità che i settori non core, cioè se i settori che non sono direttamente collegati con l'economia digitale ma che sono collaterali e che possono avere un grande vantaggio dalla distribuzione su internet dei loro prodotti, ecco, questo mondo qui forse è ancora non attento abbastanza. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, il Super Bowl si avvicina, sarà il 3 febbraio, già cominciano a circolare le prime indiscrezioni. Per esempio i media danno per certa la reunion della Destiny's Child, il gruppo che ha reso famoso Beyoncé, per il concerto alla fine del primo tempo. Destiny's Child, Lose My Breath. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!